Nuova settimana, nuovo appuntamento con Arden Devil. Benvenuto dalla voce di Marco Gravelli. Siete su Rock FM, il nostro spazio prende il via come ogni sera intorno alle ore 20, da lunedì al venerdì. Anche se l'appuntamento del venerdì non presenta allacci al passato e novità, ma bensì l'appuntamento di Arden Devil Live con CD o album dal vivo che hanno segnato la storia del mondo hard rock e heavy metal. Come sempre vado a ringraziare lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, e il nostro autore Simone, che prepara la tracklist giorno per giorno. Ricordo che se perdete un appuntamento di Arden Devil potete riascoltare quando volete tramite il nostro sito, ovvero sia www.radiorockfm.com. andate in archivio programmi, selezionate Arden Devil. Si inizia con una band americana del New Jersey che propone dell'ottimo AOR. Si chiamavano Prophet, gruppo che nacque alla fine degli anni 70 come cover band e si fece notare all'interno della propria città suonando molto dal vivo. Dopo diversi cambi di formazione cominciano a scrivere dei brani loro. L'omonimo esordio arriva nel 1985 ed ottenne il favore della critica ed è anche considerato un classico. Alla voce si alternano, oltre al bravo vocalist Dean Fasano dei Message, anche il batterista Pauley. Successivamente entrò nei Danger Danger come cantante. Il bassista Metaxas, che nel 1993 suonerà anche in un album dei Thrasher Nuclear Assault. In occasione del secondo lavoro, Cycle of the Moon, del 1988, ci sono due cambi di line-up, con sostituzione di batterista e vocalist che abbandonano il gruppo per divergenze musicali. Il nuovo cantante è Russell Arcara. Anche quest'album viene considerato molto bene dalla critica, ma le vendite risultano scarse e ne conseguì la perdita del contratto. Seguirà nel 91 l'ultimo album Recycled, passato inosservato, e che ne segnalerà praticamente lo scioglimento del gruppo. Andiamo ad ascoltare questo brano che si intitola Can't I Love da Cycle of the Moon. Sono i Prophet. Don't ottimi impassi vocali, ottima band di AOR dalla New Jersey Prophet con il loro secondo lavoro dal titolo Cycle of the Moon, era Can I Love. Andiamo invece in Canada, esattamente da Vancouver proviene questa band che si chiama Thor, una band di heavy metal tuttora in attività. Il leader è il cantante John Milk Thor, che prima di intraprendere la carriera di musicista aveva vinto alcune competizioni importanti di bodybuilding, fu eletto Mr. America, Mr. Canada e nel corso degli anni ha fatto anche l'attore in alcuni film horror e anche il produttore. Riguardo la band, nascono nel 1978 con la pubblicazione di Keep the Dogs Away. Il secondo album si segnala come il migliore, Only the Strong, ed è uscito nel 1985. Grazie a questo album suonano di spalla a Manowar, Metallica, Motorhead. Visto il buon successo riescono anche a registrare un live dal titolo Live in Detroit. Seguono altri lavori, l'ultimo è uscito nel mese di gennaio e si intitola Into the Noise. Noi dal loro album più importante, Only the Strong, andiamo a proporre le note di questa Start Rising Hell. Per chi non li conosce, si chiamano Thor. Get me on my feet. un po' epico il sound, l'heavy metal sound di questa band. Non per niente si chiamano Thor, anche perché, come vi dicevo, il loro leader cantante John Milk Thor è abbastanza ben messo a livello fisico, essendo un ottimo ex bodybuilder. Thor con Holding Strong, l'album era Star Rising Hell. Ritorniamo invece ai giorni d'oggi. È uscito nel mese di ottobre questo secondo album dal titolo To Poverty per la thrash metal band americana dei Demiricus, composta da quattro elementi. Nati nel 2001 grazie ad un EP del 2005, ottengono un contratto con la Metal Blade Records, che ne ha pubblicato dapprima l'album d'esordio One Hellbound nel 2006 e quindi questo To Poverty, dal quale andiamo ad ascoltare le note di Knuckle Eye. Demiricus. Sound molto compatto e potente per i Demiricus dal loro secondo album intitolato To Poverty, che è uscito, lo ricordo, lo scorso mese di ottobre del 2007. Ritorniamo al passato, andiamo nel mondo glam street con Fast Pussycat, band nata in quella di Hollywood nel 1986 durante il periodo d'oro per il glam. Anche loro si aggiunsero a varie band famose all'epoca, non per niente nell'86 l'album d'esordio, oltre a pubblicare diversi singoli, a vendere bene, gli permise di andare in tour insieme a Alice Cooper, Motorhead, Guns N' Roses. Il secondo album arriva nell'89, Wake Me When It's Over, che andò ancora meglio dell'esordio, tanto da essere certificato come disco d'oro, più di 500.000 copie vendute, tour con Motley Crue e Kiss. Arriva il grunge, come spesso vi segnalo, negli anni 90 arriva anche l'album dal titolo Whipped, che non riscosse successo e che tolse il contratto alla band. Nel 1993 la band si scioglie, fino al 2001 quando si riuniscono. Occorrono comunque altri 5 anni, quando nel 2006 esce l'ultimo album in studio, The Power and the Glory Hall, che vede nella line-up originale il solo cantante Tammy Doan, mentre gli altri musicisti erano quelli di un altro gruppo chiamato New Leaders. Questo ha provocato le accuse dei membri originali della band, perché Doan aveva usato il nome Faster Pussycat senza permesso. Così questi ultimi si riuniscono a nome Faster Pussycat senza di lui e partono in tour senza di lui, naturalmente, provocando la sua rabbia per non averlo chiamato. Alla fine dello scorso anno, per il bene di tutti, i diritti di Faster Pussycat sono stati ceduti a Doan. Andiamo ad ascoltare le note di un loro brano dall'album Whipped, si intitola Jack the Bastard. Sono i Faster Pussycat nello spazio di Arden Davy. Everywhere it stays. Jack the Bastard per tutti gli amanti del Glam Street. So che ce ne sono molti anche all'ascolto, quindi spero di averli accontentati almeno quest'oggi con l'ascolto dei Fast Pussycat, che non avevamo mai proposto in precedenza. Andiamo ad una rarità, una particolarità, un supergruppo che si è unito per creare questo, pubblicare questo EP di tre brani molto tempo fa, nel 1985, un mix anche abbastanza difficile da trovare su vinile. Si chiamavano questo progetto Gog Magog, nato alla metà degli anni 80, vedeva in line-up questi nomi. Alla voce Paul Dieno, ex Iron Maiden, chitarra Jenny Gers, che entrerà poi nei Maiden a qualche anno dopo, Pete Wills, ex Def Leppard al basso, Neil Murray, ex Whitesnake, che sarebbe poi entrato nei Black Sabbath nei primi anni 90, e alla batteria Cliff Bar, ex Iron Maiden. Quindi veramente una super band. Il nome, abbiamo detto, è Gog Magog. Hanno inciso un EP di tre tracce dal titolo I Will Be There, che andiamo a proporvi. Quindi Gog Magog. Scared. molto lontano dal sound decisamente heavy, però vabbè, questo rimane un mega gruppo, un mega progettone, Gog Magog, con, lo ricordo, Paul Di'Anno, Janik Jarce, Pete Wills, Neil Murray, Cliff Bar. Abbiamo ascoltato il brano che dà il titolo a questo EP, si compone di tre brani, tre tracce in totale, I Will Be There. Chiudo con il passato, andiamo al presente, il ritorno sul mercato a sorpresa di questa hard rock band americana, Lynn Allen, nati nel 1982, creati da Billy Pfeiffer. L'esordio arriva con l'album We Loved You del 1984, ma già durante la stesura delle canzoni del secondo album la band si separa dal tastierista e dal chitarrista. Nonostante ciò pubblicano il secondo lavoro, Panorama Park, dell'86. Dopo sei anni arriva il terzo album omonimo, al quale segue poi un live album, e a metà degli anni 90 la band si scioglie. Nel 2006 Billy riforma il gruppo a nome Lynn Allen, scrive nuove canzoni e finalmente vengono pubblicate in questo CD che si intitola And the Horse You Rode It On. Questa è Enough to Make Me Sober. Hello, hard and heavy listeners. Here's Kai Pazeman from Paradox. Electrify your life and mosh it. Inizio col botto, decisamente trash metal, il sound dei Paradox per la seconda parte del nostro spazio di Arden Davy di questa sera su Rock FM insieme alla voce di Marco Gravelli. Abbiamo ascoltato direttamente dalla voce del chitarrista Jay Passman l'annuncio di questo prodotto, di questo nuovo album, il terzo della carriera di questa band tedesca, il cui leader è il cantante chitarrista Charlie, si chiamano Paradox. L'album si intitola Electrify e vede appunto la conferma del chitarrista Kane, un nuovo batterista e un nuovo bassista rispetto ai loro precedenti lavori. Ci sono 10 tracce mixate e masterizzate da Jacob Hansen presso i suoi Hansen Studios in Danimarca. La prossima band ci porta invece in Australia, vincitori, o perlomeno hanno avuto 2 nomination agli awards americani come miglior album rock, come miglior realizzazione dell'anno. Stiamo parlando degli Airborne, giunti al loro secondo album. Il primo è un'autoproduzione uscita solo per il mercato australiano, quest'altro è uscito nel giugno dello scorso anno in Australia, verrà pubblicato anche in Europa su Roadrunner Record questa estate, quindi è un'anteprima. E per tutti gli amanti degli AC/DC, visto che l'album nuovo non arriva degli AC/DC, si possono quindi accontentare e gioire ascoltando questo gruppo che ricorda veramente molto da vicino gli AC/DC. Non per niente sono anche loro australiani. Li ascoltiamo con Black Jack da questo album intitolato Running Wild Airborne. Sound a manetta per questi australiani Airborne, Black Jack, il pezzo dal loro album nuovo che si intitola Burning Wild, che prossimamente lo potrete trovare nei negozi, si parla di quest'estate, però a meno che non lo troviate import americano o australiano. Arriviamo anche per questa sera all'appuntamento consueto con le Metal News. Si parla degli Opeth, il prossimo nuovo album dal titolo Watershed per la band svedese sarà pubblicato ad inizio di giugno dalla Roadrunner Records, l'album registrato in Svezia, prodotto dal leader Michael insieme a Jens Bogren, che ha già lavorato per Hammerfall e Symphony X. Ci saranno 7 brani in totale e, a quanto scrive l'etichetta, combinerà elementi di metal moderno, prog rock, free jazz e accenni a musica folk europea. Presente come special guest la cantante folk Natalie Lorick. Parliamo dei Thunderstorm, nuovo cambio di cantante per la power metal band finlandese del chitarrista produttore Nino Loren. Infatti il cantante Tomu, che era subentrato temporaneamente per portare a termine il loro tour, è stato rimpiazzato dall'emergente Rick Halsey degli Advanced Frequency e che di recente abbiamo ritrovato anche con i Sandalinas. Rimane da vedere se Rick proseguirà anche con altre bands. Jared Art, la hard rock band tedesca, ha reso noto che tornerà in Italia per 4 date tra il 30 di aprile e il 3 di maggio, rispettivamente Bologna, Prato, Verona e Mozzate, in provincia di Varese. Sepultura, la band brasiliana, sta lavorando al nuovo album, che questa volta sarà ispirato dal libro e film Arancia Meccanica. La band storica heavy metal giapponese per eccellenza, cioè i Loudness, torneranno sul mercato con un nuovo album dal titolo Metal Mad. Ci saranno 11 brani, l'album uscirà il 20 di febbraio in Giappone, mentre la data per il resto del mondo è ancora da definire. Parliamo dei Whitesnake, rese note le date di pubblicazione del nuovo atteso album dal titolo Good to be Bad per la band di David Coverdale. In Europa uscirà il 21 di aprile e presenterà 11 brani. Nel frattempo uscirà alla fine della prossima settimana il nuovo album solista del famoso 59enne tastierista inglese Don Henry, famoso per aver militato non solo negli Whitesnake ma anche nei Deep Purple, nei quali è ancora l'attuale tastierista nei Rainbow, oltre a diverse apparizioni come special guest con Ozzy, Michael Schenker, Thin Lizzy, Black Sabbath, Ten, Judas Priest e via dicendo. La sua prima vera attività nel mondo hard rock comincia nel 74 quando entra nella band di Cozy Powell, gli Hammer, per poi collaborare con i Black Sabbath e quindi entrare nei Rainbow. La sua è una lunghissima carriera tra gli anni 70 sino ad oggi. È ora pronto questo album solista dal titolo A Light in the Sky. Alcune sono tracce strumentali, altre sono cantate da Carl Sentence, che ha cantato anche nell'album Round 13 dei Crocus. E noi ve lo proponiamo, ripeto, uscirà la prossima settimana, ve lo proponiamo già in anteprima con il pezzo intitolato Shooting Star dall'album A Light in the Sky, il tastierista Don Henry. Verrà pubblicato la prossima settimana questo album dal titolo Light in the Sky per il grande tastierista Don Airey. L'etichetta è quella olandese Mascot Record, verrà distribuito dalla Edel Music per il territorio italiano. Oggi ve l'abbiamo proposto e presentato in anteprima con le note di questo motivo dal titolo Shooting Star. Abbandoniamo Don Airey, andiamo ad un ritorno, altro album che uscirà la prossima settimana, esattamente lunedì prossimo. L'album si titola Is Above, So Below, per questa storica Christian Thrash Metal band americana. Strano, propongono thrash metal ma con contenuti a livello cristiano nei testi. Loro si chiamano Deliverance, il leader è il cantante chitarrista Jimmy P. Brown II. Gruppo che risale alla seconda metà degli anni 80 e che ha effettuato il suo esordio nell'89 con l'omonimo album. Da segnalare il loro secondo lavoro, Weapons of Our Warfare, considerato il loro album migliore. Moltissimi sono stati i cambi di line-up e tanto da notare che i Deliverance si erano sciolti nel 95 per riunirsi 6 anni dopo e pubblicare un album. Segue un altro lungo periodo di pausa quando nel 2006 Jimmy ha riformato il gruppo e a 7 anni dal precedente album verrà pubblicato il prossimo lunedì questo As Above, So Below. Andiamo ad ascoltare Cause and Effect da questo nuovo prossimo album dei Deliverance. Zero tolerance for me. La thrash metal band cristiana dei Deliverance dal prossimo lunedì nei negozi con questo nuovo album. Nuovo album invece che è uscito a metà della scorsa settimana per quanto riguarda la prossima formazione. Anche l'ultimo pezzo, quindi ricordo il nostro appuntamento consueto serale dalle 20 alle 21, da lunedì al venerdì su Rock FM con la voce di Marco Gravelli, con il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodia numero 1 qua a Milano, nonché il nostro autore Simone che ha preparato e prepara di giorno in giorno tutta la nostra tracklist e le note biografiche delle band. L'ultimo gruppo in ordine di tempo sono i Crematori. Questo è il nome della band, l'album nuovo si intitola Prey, propongono un gothic metal, sono tedeschi, il gruppo che ha esordito nel 1993 con l'album Transmigration, che nel corso degli anni ha visto anche aumentare la propria notorietà, tanto da arrivare ad un contratto con l'etichetta Nuclear Blast, con la quale ha pubblicato alcuni album che sono entrati nelle classifiche di vendita tedesche. In occasione del precedente lavoro c'è stato un ritorno all'etichetta Massacre Records, che li aveva lanciati e che nuovamente pubblica questo album intitolato Prey. Vi lascio con le note di Left the Ground, fa parte di questo lavoro. Noi ci ritroveremo logicamente domani sera ancora per un'altra puntata con uno spazio all'inizio dedicato al passato con hard rock, heavy metal, glam, thrash eccetera, e la seconda parte come sempre con tante novità, mentre ricordo per i nuovi ascoltatori che l'appuntamento del venerdì è soltanto focalizzato sugli album importanti del mondo hard rock e heavy metal dal vivo. Sono tutti lavori ufficiali più o meno reperibili sul mercato o in vinile o in ristampe in CD. Un grazie da parte di Marco Gravelli, vi lascio allora con i Crematori, a domani sera, ciao ciao. My thoughts will shine again.